Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz e modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Come ogni mercoledì, o quasi, va in onda Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di tutti i generi e di tutte le epoche. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e anche oggi non è da meno. Novità che non è proprio freschissima, diciamo così, risale al marzo del 2023, quindi ha 6-7 mesi sulle spalle, ma non è che in questa trasmissione si faccia gara a chi trasmette prima una cosa, ma la novità è sempre per quel che riguarda la mia trasmissione. Infatti questo album che ci andremo ad ascoltare, che si chiama Full House for Sale, non ve l'ho mai proposto e quindi è una novità. Detto il titolo, dirò anche il titolare, vale a dire una band che si chiama Fairport Convention, una band che molti critici più importanti di chi vi sta parlando cita come gli inventori del folk rock britannico, e io mi associo a questa definizione. Loro sono attivi dal 1967 e lo sono tuttora dopo un piccolo intervallo all'inizio degli anni 80, e però hanno subito una caterva di cambiamenti di personale all'interno della propria formazione, e cambiamenti con andate e ritorno più volte di vari musicisti, ed è una fucina di talenti per quel che riguarda appunto il folk rock britannico, e di questo ne parleremo nel corso della prima parte della trasmissione. Nessun membro originale è rimasto. Il musicista con la più lunga militanza all'interno del Fairport Convention è adesso Dave Pegg, il bassista, che per qualche tempo, molti di voi ricorderanno, è stato anche il bassista dei Jethro Tull. Durante il loro scioglimento, diciamo così, nei primi anni Ottanta, rimaneva in azione, diciamo così, in essere, un piccolo festival che loro avevano organizzato in una città, in una cittadina che si chiama Croppredy. E malgrado lo scioglimento, loro tutti gli anni in agosto si trovavano a Croppredy e facevano una serie di concerti, loro, i loro amici e tanti ospiti, fra cui cito solamente Roger Daltrey degli Who e Robert Plant, e tutti questi membri che si sono sparsi all'interno del movimento folk rock britannico hanno originato altre band che ci ascolteremo dopo, tipo Fotheringay, tipo Stiley & Span, tipo Albion Band. Il festival di Croppredy poi si è ampliato a dismisura, adesso è uno dei festival più importanti e più partecipati di tutta la Gran Bretagna. E il 13 agosto del 2022 la band, con un rientro di quello che forse è il personaggio più famoso uscito dal line-up della band, che è Richard Thompson, lui tornò in questa occasione e fu il pretesto, l'occasione per risuonare da inizio alla fine uno dei loro album più famosi, che si chiama Full House. Infatti l'album che vi propongo si chiama Full House for Sale, un gioco di parole. Fra l'altro la copertina è molto bella perché ha la copertina originale con loro, non dico imberbi perché hanno tutti la barba, ma sicuramente molto giovani, e la parte superiore della copertina quasi gli stessi personaggi nella stessa posa adesso che hanno sul settantello e forse qualcosina di più. Ma a voi interessa la musica, giustamente, e ce l'andiamo ad ascoltare. L'album è stato pubblicato Full House originariamente nel luglio del 1970 ed è, come vi dicevo, è stato riproposto nell'agosto dell'anno scorso in tutta la sua completezza, compreso questo brano che si chiama Poor Will and the Jolly Hangman. Loro sono Fairport Convention. Judge on the jury, but the justice is sound. Oh, well, on the gallows tree, never a cruel word to say. Oh, that a young man La voce incredibile di Richard Thompson, bellissima, ad interpretare questa Poor Will and the Jolly Hangman. Sono Fairport Convention, edizione 2022, con la riedizione live, la riproposizione live, per meglio di dire, di Full House. L'album appunto si chiama Full House for Sale, il tutto registrato il 22 agosto dello scorso anno, il 13 agosto, scusate, dello scorso anno. E come preannunciato in questa prima parte della trasmissione, ci ascolteremo alcune delle band più conosciute del quel movimento che è stato definito folk rock britannico, che, come dicevo in precedenza, molti danno come avviatori appunto i Fairport Convention. Una delle band migliori è sicuramente quella dei Pentagol, già il nome dice tutto, Pentagono. Erano cinque musicisti straordinari, Bert Jansk e John Ramborn alle chitarre soprattutto, loro erano già famosi per loro conto, erano un duo già stabile, stabilizzato e molto conosciuto nell'ambiente folk rock britannico. Poi fondarono questi Pentagol che sono veramente spettacolari. Anche loro sono stati attivi dal 1967 al 1973, poi hanno avuto qualche anno di scioglimento e Jack McShee, la cantante, nel 1981 ha riformato la band con altri musicisti, anche perché nel frattempo purtroppo alcuni di loro erano morti. Pentagol, oltre al folk, mescolavano elementi jazz e blues ed erano veramente una band molto interessante. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un album che si chiama Live 1994, registrato nel 1994 ad Amburgo in Germania, e uno dei loro brani di punta, il title track dell'album omonimo, si chiama Cruel Sister. Loro sono Pentagol. There lived a lady by the North Sea shore. They loved to the bonny boo. Two daughters were the babe she bore. La la la la la la la. As one grew bright as is the sun, lay the band to the bonny boo. So cool black grew the elder one. La la la la la la la. A knight came riding to the lady. Lay the band to the bonny boo. He traveled far to be there warm. Ba la la la la la la. He courted one with gloves and rings. Lay the band to the bonny boo. But he loved the other above all things. Ba la la. Thank you. And Nathaniel should ask me the reason why I'm wearing it. It's all of my love, the way. All around my hand, I will wear it. All around my hand, all is ever. Medley di due brani a concludere il concerto che gli Stileges Pan diedero al Berklee Performance Center di Boston il 15 ottobre 1976, e i due brani sono All Around My Hat e The Mason Apron, e quello strumentale inforsennato nel finale. E niente, Stileges Pan sono un'altra delle grandi band del folk rock britannico, fondate, guarda caso, da un ex Fairport Convention, il bassista e cantante Ashley Hutchins, che quando non sa cosa fare fonda una band. Maddie Prior è l'unico membro, la cantante, è l'unico membro costante, anche se non è fra i fondatori. Questa band, che come le altre più o meno è stata attiva dal 1969 al 78, poi ha avuto qualche problema e negli anni 80 si è riformata fino ai giorni d'oggi. È un cofanetto molto interessante, questo si chiama Good Times of Old England ed è composto da 12 CD, praticamente tutta la produzione discografica fino al 1983 degli Stileges Pan, comprende anche 4 live, 4 CD live, di cui uno inedito, fra cui questo che ci siamo ascoltati, che è stato appunto registrato in quel di Boston dagli Stileges Pan. Yeah. they piled the flowers on the fire. Now, Willie McBride, I can't help wonder why. To those that lie here, now why did they die? The call. Did they really believe that this war could end wars? Oh, the sorrow, the suffering, the glory, the pain. All the killing, all the dying, it was all in vain. For young Billy McBride, oh, it happened again. And again, and again, and again, and again, and again. Did they believe the wrong way? Un brano che a me piace veramente tantissimo, si chiama The Green Fields of France, un classico della produzione della musica, anzi anglosassone, e in questo caso ad eseguirlo in chiusura di concerto è una band che si chiama The Men They Couldn't Hang, gli uomini che non poterono impiccare, un chiaro riferimento a Baba Kobli, che fu un personaggio, diciamo così, assassino, aveva ucciso una persona, credo una donna, e scampò per tre volte all'impiccagione, nel senso che per tre volte la forca fallì, non funzionò, per cui in base alla legge dell'Inghilterra in quel periodo fu lasciato libero di tornare a casa, ed scrisse anche un libro su questa cosa, e loro hanno preso il nome da Baba Kobli, appunto, a cui i Fairport Convention, guarda caso, hanno dedicato un intero album. Mr. Philip Hodges, Mr. Nick Muir. Continuiamo con questa rassegna che include alcune delle migliori band del folk rock britannico, con un'altra band fondata da Ashley Hutchings, il bassista dei l'ex bassista dei Fairport Convention, a questo punto anche ex bassista degli Stiliges Pen, e fondò questa Albion Band, che è stata attiva dal 1971 al 2014 con diversi stop dovuti appunto all'estro, chiamiamolo così, di Ashley Hutchings, che ogni tanto usciva dalla band, ne formava un'altra e poi tornava. Comunque il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a un altro dei grandi festival folk britannici che si svolge a Cambridge, ormai da tempo immemore. L'Albion Band ce l'andiamo ad ascoltare in questo brano che è stato registrato il 1 agosto del 1987. Il brano si chiama The Shipwreck, loro sono Albion Band. Ship that's strong, a mast that's low. four soaking sickly sausage rolls, slipping down slowly. See ya, hang out the door. Let a crooked cover make us just another take. I don't want it takes to be a friend. Presently we'll have a pint or two together. Everybody do that thing. Drinking. Siamo rimasti al Festival di Cambridge insieme a un'altra delle band più famose del movimento folk rock britannico, anzi forse la più famosa perché è sicuramente quella che ha venduto più album in assoluto di tutto il movimento. Si chiamano Lindisfarne, sono attivi dal 1968 fino ad oggi, con anche loro diverse interruzioni perché alcuni dei loro membri sono deceduti tutte le volte che un membro muore si fermano un attimo, ma poi ricominciano con altri musicisti. Infatti l'unico membro originale si chiama Rod Clemens, suona un po' di tutto, basso, chitarra, violino, mandolino e canta, e loro hanno avuto un grande successo con un album che si chiama Fog on the Tyne, che dal quale ci siamo ascoltati la title track. Il Tyne è il fiume della loro città, che è Newcastle. Il nome completo sarebbe Newcastle upon Tyne, e appunto con questo Fog on Tyne ebbero un grande successo. Fu l'album più venduto in Inghilterra nel 1972. La registrazione che ci siamo ascoltati di Fog on the Tyne appartiene al 2 agosto del 1986. Vado a concludere questa prima rassegna, questa prima parte di questa piccola rassegna dedicata al folk rock britannico con degli infiltrati. Infatti la band che ci andiamo ad ascoltare adesso è stata uno dei grandi gruppi dell'hard rock, se non il più grande. Però a un certo punto dei loro concerti staccavano la spina, si mettevano a sedere e suonavano delle cose acustiche con varie implicazioni folk, tipo quelle che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Brown Eye Are a Stomp. Loro sono i Led Zeppelin, a concludere questa prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. sits in Dunfermline town, drinking up the blood red wine. Where can I get a skeely skipper to sail this mighty boat of mine? I there spoke a bonny boy, sitting at the king's right knee. St. Patrick's fence is the very best seaman that ever sailed upon the sea. The king has written a bold letter, and he's sealed it up with his own right hand, sending word unto St. Patrick to come to him at his command. You told a lie concerning me, for I was never a very good seaman, nor ever did intend to be. They had not sailed upon the deep a day, but barely three, when loud and boisterous grew the wind, and so noisy blew the sea. A mermaid and a comb and a glass all in her hand. Here's to you, my merry young men, for you'll not see dry land again. Long may my lady stand with a comb and glass all in her hand, before she sees my bunny ship come sailing homeward to dry land. 40 miles off Aberdeen, the water's 50 fathoms deep. There lies the Sir Patrick's place, with the Lord of Scotland at his feet. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi. Si chiama Full House for Sale, album live, l'ennesimo album live nella lunghissima carriera dei Fairport Convention. Tutto l'album Full House riproposto integralmente è il 13 di agosto del 2022. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Sir Patrick Spence, ed è appunto quello che cominciava il secondo lato dell'album. A suo tempo l'album uscì nel luglio del 1970. Molto velocemente, perché abbiamo molta carne al fuoco per quel che riguarda Record Today, che come sempre è inserito nella seconda parte di Città Fujiko Live Club e che vi fa ascoltare i brani nel corso della giornata in cui sono stati registrati. Inutile dire che anche oggi tantissime cose, per cui il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade, e iniziamo subito dal 1977, uno degli album più noti in assoluto del rock americano e sicuramente il più noto per quel che riguarda Jackson Browne. Si chiama Running on Empty, tanti brani che sono stati registrati qua e là per gli Stati Uniti in diverse serate e in diverse location, appunto. Tre dei brani sono addirittura stati registrati in camere di albergo, ma questo no. Questo che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Garden State Arts Center di Homedale nel New Jersey, ed è stato registrato appunto il 6 di settembre del 1977 e si chiama You Look the Thunder. Grande musicista, grande cantautore, ma soprattutto grande attivista per i diritti delle minoranze e per la salvaguardia del pianeta, Jackson Browne, anche se poi pare che abbia avuto grossi problemi di violenza domestica, non subita ma data, diciamo così. Comunque a noi interessa la parte musicale. Jackson Browne, questo era You Love the Thunder, che è stato registrato, come dicevo, nel New Jersey, il 6 settembre del 1977. Come spesso accade, cambiamo genere musicale e location. Siamo in Australia, anche se la band che ci andiamo ad ascoltare arriva da Manchester. Si chiamano Magazine, furono attivi dal 1977 al 2011 e furono fondati da Howard Devoto, cantante che inizialmente iniziò la propria carriera con i Buzzcocks, grande gruppo di punk rock. L'album che ci andiamo ad ascoltare in vinile si chiama Magazine, è stato registrato appunto alla Festival Hall di Melbourne nel 1980, e l'album si apre con questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Give Me Everything. And now three little words. Musica tipica degli anni Ottanta, questa dei Magazine, Howard Devoto, il leader e principale compositore della band, che ha avuto un grandissimo successo di critica, un po' meno onestamente di pubblico, anche se ha avuto uno zoccolo duro che li seguiva costantemente. L'album in questione, il primo dei loro album live, ne hanno fatti diversi, si chiama Play ed è stato registrato a Melbourne in Australia, esattamente al Festival Hall, il 6 settembre del 1980. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Give Me Everything. Ha fatto un solo album da vivo, ma è stato quello che l'ha fatto entrare nell'Olimpo della musica rock di tutti i tempi. Si chiamava Jeff Buckley, grandissimo cantante, grandissimo personaggio, e la sua morte nel 1997 ha lasciato veramente un grande vuoto nell'ambito del canto rock. E dopo la sua morte sono usciti diversi album dal vivo, fra cui questo che ci andiamo ad ascoltare, si chiama White Mystery Boy, è stato registrato in diverse parti del globo, naturalmente in diverse occasioni, e questo in particolare è sempre in Australia, quindi rimaniamo down under, come si suol dire, al Phoenician Theatre di Sydney, esattamente il 6 settembre del 1995. Il brano si chiama Kangaroo Jeff Buckley. È un brano che comincia molto lentamente, molto tranquillo. Pazientate. Green eyes. Understand, you know, watch this, Josh, just play the bass line. Watch this, watch this. I got that in my behind. I can't even stand up straight. Put the kick drum with it, come on. I just can't. And you know when you put the guitar on top, you just gotta like. My daddy's Thunderbird, ride, ride, ride. 6'6", so clear, it's absurd. I'm gonna put her in the backseat, drive her, yeah, to Tennessee. Tonight, I ain't in the mood. But if you don't mind, could we just watch? Ooh, funky London, y'all say, ooh, funky London. and lights down low. Boy, don't you move, that's fun. Can I come up in the balcony? Don't make me come up there. I'm feeling you too much, horns. I break it down low. Keep it going, Cora. Give me that back horn, but just low. Altra grande perdita per la musica rock di tutti i tempi, quella di Prince Roger Nelson, per gli amici solamente Prince, arrivava da Indianapolis, da Minneapolis, scusate, nel Minnesota, è stato uno dei grandi della musica funk e non solo funk mondiale, e lui ha avuto anche una serie di problemi, sapete sicuramente meglio di me, ma ve lo ricordo, aveva dei problemi con la casa discografica, non specifico la Warner Bros., e quindi cambio nome per naturalmente cambiare contratto magari con un'altra casa discografica, e per certo periodo si fece chiamare Tough Cup, che è l'acronimo per The Artist Formerly Known as Prince, l'artista che era conosciuto come Prince. E quello che ci siamo ascoltati, che è una versione molto particolare di Alphabet Street, arriva da un dischetto che non troverete in commercio, o almeno non nei negozi di dischi, neanche su Amazon nel reparto CD, perché era legato a un libro, quello che gli inglesi chiamano un table book, sono quelli grandi che non si riescono nemmeno a tenere in mano, e l'album, il libro si chiama 21 Nights, e sono praticamente fotografie di una serie di concerti, 21 per la precisione, che il buon Prince tenne a Londra all'Old Tube Arena. Considerate che l'Old Tube Arena ha una capacità di 20.000 persone, lascio a voi il conto per 21 notti quanto sia. Comunque, non contento di questo, il buon Prince andava dopo il concerto a tarda notte a suonare nel teatro che è all'interno del Tube Arena, c'è la sala grande, diciamo, che è quella da 20.000 posti, poi c'è un teatro che si chiama Indigo 2 da 2.750 posti. Chiamava alcuni amici, si fa per dire 2.750 o quasi, e poi suonava un altro intero concerto, cioè dopo tre ore nella Old Tube Arena faceva un altro paio d'ore per gli amici all'Indigo 2. Le registrazioni che sono inserite in questo allegato al book, appunto, che si chiama 21 Nights, sono tutte registrate all'Indigo Club negli after show dei Prince, e questo in particolare è stato registrato proprio il 6 settembre del 2007. Ultima cosa per Ricordi Today di oggi, arriva da una band molto molto conosciuta, si chiamano Metallica, li conoscerete, li apprezzerete sicuramente, sto parlando agli amanti del metallo, della musica metallica. James Hetfield la chitarra e Lars Ulrich la batteria sono gli unici due membri originali, ma in ogni modo loro sono sempre molto famosi. Uscì un album nel 1999 che si chiamava S&M, stava per Symphony and Metallica, e infatti è stato registrato insieme alla San Francisco Symphony, e la cosa è talmente riuscita, talmente piaciuta, che nel 2019 è stato registrato e pubblicato S&M 2, cioè Symphony e Metallica 2. Da questo album ci andiamo ad ascoltare uno dei classici della band, si chiama The Memories Remains. Let's show the symphony how loud you could get, all right? Sicuramente una delle band più amate dai cosiddetti metallari, infatti loro si chiamano Metallica. Il brano che ci siamo ascoltati appunto è stato registrato insieme alla San Francisco Symphony, The Memory Remains, cantato a squarciagola appunto da tutto il pubblico il 6 novembre del 2019, a concludere Ricordi Today di oggi. A concludere Città Fujiko Live Club invece ci pensa la novità che vi ho proposto quest'oggi, vale a dire il Fairport Convention Full House for Sale, la riproposizione integrale del loro album del 1970, registrato però lo scorso anno in quel di Crop Ready. Prima di passare la parola, diciamo così, a Fairport Convention, però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo ogni mercoledì dai 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonico di Radio Città Fujiko da Bologna. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio appunto in compagnia dei Fairport Convention. Ciao a tutti. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Doctor of Physics. Ciao a tutti da Nebbio.